Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo arrivati a settembre, inizia una nuova stagione, anche una nuova stagione politica che in Italia culminerà fra pochi mesi con le elezioni e naturalmente uno dei temi clou di questa campagna elettorale sarà il tema dell'Europa. Qualcuno, anzi sicuramente, comincerà a invocare l'uscita dell'Italia dall'euro e magari addirittura dalla stessa Unione Europea. E allora consiglio la lettura del libro di un esperto riconosciuto, Lorenzo Bini Smaghi, che è un economista, è stato componente del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea e che ha scritto La tentazione di andarsene fuori dall'Europa, c'è un futuro per l'Italia? Punto interrogativo. È pubblicato dal Mulino, 190 pagine, 15 euro. L'Europa resta certamente ammaccata dalla crisi che scoppiò qui nel 2008, anche se i segni di miglioramenti non mancano, anche negli atteggiamenti dell'opinione pubblica, nei confronti delle istituzioni europee e dell'euro, una fiducia che si è rafforzata anche dopo alcuni risultati elettorali dei mesi scorsi come quelli nei Paesi Bassi e in Francia. Resta in questa crisi però il punto debole rappresentato dall'Italia che, dice l'autore, ha affrontato questa situazione in una condizione di particolare debolezza dopo un lungo periodo di sviluppo molto più debole di quanto non avvenisse negli altri paesi, con un forte debito pubblico e una produttività stagnante. L'Italia, spiega Bini Smaghi, è l'unico paese dell'Europa in cui nel 2017 un cittadino si trovi ancora in condizioni peggiori rispetto a 20 anni fa in termini di reddito. Tutti gli altri hanno migliorato questa condizione e infatti non a caso l'opinione pubblica italiana è la più critica nei confronti dell'Europa, che assume dunque il ruolo del capro espiatorio per una situazione le cui responsabilità sono soprattutto interne, sono soprattutto nostre, italiane. Per questo l'autore parla di dissonanza cognitiva, del non voler cioè vedere le cose come stanno, un vizio che diventa ai suoi occhi il vero problema dell'Italia e la costringe a rimanere immobile. E Bini Smaghi esamina la situazione, spiega i numeri in termini comprensibili a tutti, poi illustra le varie cause che agli occhi di un'opinione pubblica disinformata confermerebbero le responsabilità dell'Europa. E di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera a Lorenzo Bini Smaghi. Buonasera. Lorenzo Bini Smaghi, lei comincia il suo libro smontando la tesi secondo la quale l'austerità sarebbe la causa principale della situazione della crisi italiana e tra l'altro dimostra che l'Italia non è stata particolarmente austera in questi anni. Quindi questo mito va ridimensionato? Ma diciamo che altri paesi, in particolare nel confronto tra l'Europa e gli Stati Uniti, hanno fatto anche loro negli ultimi anni austerità quanto l'Europa, soprattutto le autorità locali. E poi se guardiamo gli ultimi due o tre anni, l'ultimo governo, l'Italia ha fatto una politica fiscale caratterizzata dalla cosiddetta flessibilità, cioè dalla possibilità di usare più margini di spesa pubblica rispetto al percorso di risanamento e poi non ha ottenuto in realtà una crescita maggiore. Dunque il percorso italiano, che è caratterizzato da una crescita ancora bassa, non può essere spiegato dall'austerità, anzi forse dal fallimento della politica di espansione fiscale di questi ultimi anni. Un altro argomento che lei smonta sono le ragioni dei cosiddetti sovranisti. L'impotenza monetaria per loro sarebbe una palla al piede. Invece lei dimostra che questa tesi è sbagliata, anche se la convergenza si sta manifestando. Poi lei spiega nel suo libro più avanti in altro modo. Ma insomma, recuperare una nuova moneta, uscire dall'euro come alcuni propongono, a parte la fase di transizione che comporterebbe la ridenominazione di tutti i contratti, in alcuni casi alcuni ci rimetterebbero moltissimo, ma farebbe ripartire quello che conoscevamo negli anni 60-70, cioè tassi di interesse molto più alti. E ricordiamoci, appunto, prima dell'euro l'Italia pagava tassi di interesse sul debito pubblico di circa l'8% del PIL, oggi siamo al 4%, dunque abbiamo fatto un bel risparmio. Il problema è quel risparmio lì dove è finito, purtroppo non è finito in riduzioni di tasse, finito in spesa pubblica corrente, e questo non ha aiutato la crescita. Un'area nella quale tutta l'Europa è in ritardo è quella del settore bancario, e qui in particolare l'Italia però è in particolare ritardo, lei dice nel suo libro. Ma paradossalmente l'Italia all'inizio della crisi è quella che forse aveva retto meglio, nel senso che erano banche meno diciamo così, sofisticate, meno aperte ai flussi di capitale, agli strumenti complessi. Però poi c'è stata una recessione abbastanza importante, diciamo, l'Italia dal punto di vista della crescita ha sofferto più degli altri, e questo poi si è risentito sui bilanci bancari, e forse a quel momento lì bisognava operare un po' prima nella ristrutturazione dei bilanci, nella ripulitura di tutte le sofferenze che sono accumulate. Questo non si è fatto per una serie di motivi, o almeno non si è fatto in tutte le banche, ecco, diciamo che non si può mettere tutte le banche in un fascio solo. Alcune banche l'hanno fatte e oggi si trovano meglio, altre hanno ritardato e abbiamo visto che sono poi quegli istituti di credito che hanno creato dei problemi in termini di ricapitalizzazione, in termini di ristrutturazione, intervento del settore dello Stato per aiutare queste banche a fare l'aggiustamento che avrebbero dovuto fare 2 o 3 anni fa. Un tema di cui lei sottolinea l'importanza è quello delle aspettative, infatti parla dei rischi che lo scetticismo sulla permanenza dell'Italia nell'euro può suscitare anche soprattutto presso gli ambienti di chi dovrebbe investire in Italia. Effettivamente l'Italia è rimasto, dopo la Francia, dopo le elezioni francesi, l'Italia è rimasto l'unico paese dove si parla di euro, di uscita dell'euro, anche se ora, insomma, forse dopo i risultati francesi c'è un po' un ripensamento, però se si guarda i sondaggi, i dibattiti politici, il referendum sull'euro, l'idea che l'Italia possa uscire dall'euro è un tema di cui si dibatte, e se uno guarda all'esterno a questo dibattito, uno ha intenzione di investire in Italia, si vorrebbe porre la domanda: ma perché perché devo investire in un paese che si pone queste domande? Magari domani esce dall'euro, reintroduce una moneta debole e io investitore perdo il mio investimento. Dunque questo discutere continuamente del futuro dell'Italia nell'euro, o sì o no, scoraggia sicuramente gli investimenti e alla fine ci fa male. Mentre dovremmo occuparci di quello che è il tema vero dell'economia italiana, cioè la produttività. Esatto, la produttività è quello che ognuno di noi produce in media, diciamo, nell'economia del paese, e il risultato abbastanza deludente, molto deludente dell'economia italiana è che la produttività è rimasta sostanzialmente immutata negli ultimi 20 anni, vuol dire che un produttore, un lavoratore, un addetto ai servizi produce la stessa quantità di beni o servizi di 20 anni fa nella media, il che significa che nonostante i progressi tecnologici, nonostante la globalizzazione, nonostante tutto, il paese è fermo. Questo è un problema, perché gli altri invece hanno ripreso a crescere in modo molto più rapido. E uno degli aspetti di questa crisi della produttività, secondo lei, è lo scarso riconoscimento che nel nostro paese ha il merito. Questo è un tema non economico e direi trasversale, che riguarda tutta la società. Tema culturale, sì, diciamo un tema culturale, un tema, però ci sono delle ricerche empiriche oramai che lo dimostrano, non solo per il settore pubblico tra l'altro, ma anche per il settore privato, cioè la tendenza alla fine a scegliere la produzione, il PIL, le scelte manageriali sono fatte dagli uomini e dalle donne. Se gli uomini e quelle donne non hanno le capacità necessarie per essere competitive, per portare avanti, far crescere, sviluppare le imprese del nostro paese, alla fine siamo indietro, rimaniamo indietro. E questa tendenza a scegliere piuttosto persone caratterizzate dalla lealtà, dalla fedeltà, piuttosto che dalle competenze, alla fine si risente a livello aggregato. E questo è un male del paese, credo che purtroppo, se non ci si rende conto, e questo problema parte naturalmente dalla scuola fino poi alle scelte politiche, alle scelte manageriali, è un problema culturale che dovremmo cambiare dando l'esempio. L'esempio è quello di alcune aziende che invece ce la fanno e riescono a competere, però nell'insieme del paese alla fine abbiamo questo problema di scelte della classe dirigente, sia privata che nel pubblico, che penalizza e arresta e ferma il paese. Una delle conclusioni del suo libro è che comunque in Europa serve più integrazione, ma secondo lei c'è il clima che possa favorire questa maggiore integrazione, non soltanto in Italia? Ma abbiamo visto nel 2000, in quest'anno, per il 2017, le elezioni in Olanda, poi in Francia, vedremo in Germania, sicuramente la tendenza, chiamiamo populista, sovranista, si è un po' arrestata, e la necessità di andare avanti c'è. Credo che questo è riconosciuto anche nei dibattiti, nelle discussioni a livello politico. Naturalmente il processo europeo è un processo lento, siamo da 60 anni che piano piano stiamo costruendo questa casa comune, a volte anche spinti da delle crisi che ci fanno capire che ognuno decide la casa propria. Dunque è una combinazione di crisi, consapevolezza dei propri limiti e anche situazione economica generale. L'economia europea va un po' meglio, bisogna capire che globalizzazione ci pone di fronte a delle sfide nuove, e dunque alcune cose dobbiamo decidere più insieme, se no non siamo in grado di tenere la concorrenza con gli altri grandi, Cina, Stati Uniti, India. Dunque questo processo secondo me è inevitabile, è la velocità con cui noi capiamo che dobbiamo costruire insieme questa Europa che è la chiave fondamentale. Questa velocità a volte non è sufficiente. Però lei sottolinea che c'è un paradossale fenomeno in corso, e cioè c'è contemporaneamente la crisi degli stati nazionali e la crisi delle istituzioni sovranazionali, in certi casi appunto dell'Unione Europea. Come spiega questo paradosso? Perché è un po' l'uno è il complemento dell'altro. Gli stati da soli si rendono conto che non ce la fanno a risolvere i problemi. Pensiamo all'Italia nel caso dell'immigrazione, ma insomma, il problema della tassazione, il problema, tanti problemi economici ma anche sociali affrontati dai singoli paesi. Alla fine gli stati si rendono conto che non ce la fanno. D'altra parte la struttura politica amministrativa è nazionale, dunque è difficile capire come poi si passa dal livello nazionale a livello europeo se la politica rimane nazionale. Ci vorrebbe più politica a livello europeo, però questo vorrebbe dire togliere il potere a chi è eletto a livello nazionale e portarlo a livello europeo, ma sicuramente chi è eletto a livello nazionale non ha voglia, non vuole togliersi quel potere. Dunque c'è una specie di contraddizione interna nel processo che rende appunto i progressi dell'Europa molto lenti, perché questa contraddizione tra la crisi dello Stato nazionale e la difficoltà di far crescere l'Europa ci mette a volte in stallo, in situazione di stallo. E lei conclude il suo libro ricordando che non è male che l'Europa si occupi anche della dimensione dei cetrioli. Beh no, ma quella è una critica che viene spesso fatta all'Europa di essere troppo burocratica, di occuparsi della dimensione dei cetrioli, delle banane e via dicendo. Se uno va a vedere, in realtà anche negli Stati Uniti ci sono gli stessi regolamenti per gli europei ed è solo un elemento della definizione di un mercato unico. Il problema in Europa non è la troppa burocrazia, è la mancanza di politica. Se i politici accusano l'Europa di essere burocratica perché non hanno loro il coraggio di fare dei passi avanti e di mettersi d'accordo per un progetto veramente più europeo. Allora, quando non hanno questo coraggio, poi dicono che l'Europa è troppo burocratica, è troppo comodo, perché la burocrazia, diciamo, o l'amministrazione e i regolamenti ci sono in tutti i mercati, in tutti. Il problema è non farsi soffocare da questi regolamenti, e dunque ci vuole uno slancio politico forte. Grazie a Lorenzo Binismaghi, autore de La tentazione di andarsene. Buona serata. Grazie. Un libro che ha fatto molto discutere a proposito dell'Europa nei mesi scorsi è quello di tre studiosi di economia e questioni europee. Il primo è Markus Brunner-Meyer, tedesco, che insegna a Princeton. Il secondo è un suo collega di Princeton, ma inglese, Harold James. E il terzo un francese, Jean-Pierre Landau, che è stato vice governatore della Banque de France e direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. E insieme hanno scritto La battaglia delle idee, alle radici della crisi e del futuro dell'euro. È pubblicato dall'Università Bocconi, 546 pagine. 35 euro ed è tradotto da Marco Cupellaro e Giuseppe Barile. Un libro importante che ha alimentato un grande dibattito, come dicevo, nei mesi scorsi, che si pone l'obiettivo di spiegare come vi siano delle differenti culture economiche o idee alla base della crisi che ha paralizzato l'Europa nei mesi scorsi. Sono delle culture economiche, delle idee spesso in conflitto fra di loro, che spiegano anche le vicende dell'euro. E questo conflitto, appunto, gli autori vogliono ricostruire anche nell'esame delle origini e del funzionamento delle istituzioni europee. Un capitolo del libro è dedicato proprio al nostro paese, all'Italia, dove si manifesta lo scontro tra le due filosofie economiche che si fronteggiano, quella più liberale e quella più statalista, e che devono in Italia affrontare sfide molto particolari come quella sul mercato del lavoro, sull'istruzione, sulla demografia, sulla giustizia. Che effetto potrà avere questo scontro di idee e di visioni che sostanzialmente sono impersonate da un lato dalla Germania e dall'altro dalla Francia? Occorre appunto creare, secondo gli autori, un'unione delle idee economiche che riesca a governare le quattro polarità attorno alle quali, secondo loro, si strutturano le divergenze attuali: regole contro discrezionalità, responsabilità contro solidarietà, solvibilità contro liquidità, e poi l'ultimo punto riguarda la risposta più appropriata da dare alla crisi. Per concludere, che le due visioni, quella francese, quella tedesca, quella più liberale e quella più statalista, hanno bisogno l'una dell'altra. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Dal 4 settembre vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, da lunedì 4 settembre, tutti i giorni alle 6:30 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso parliamo di America partendo da uno scrittore svedese, Fredrik Sjöberg, che prima ancora che scrittore è scienziato, è un esperto mondiale, forse il maggiore esperto mondiale di mosche, che studia nell'isola davanti a Stoccolma di Rummaro, dove egli vive. La sua ultima fatica è dedicata a un artista americano, però un artista pochissimo noto in Europa, invece amatissimo negli Stati Uniti, che si chiama Gunnar Wildfors, di origine svedese naturalmente, come denuncia il nome. Era nato nel 1879 e, dopo aver studiato e lavorato in vari paesi europei, era arrivato negli Stati Uniti nel 1921. Il pittore è notissimo e molto caro agli americani per le splendide vedute della natura del loro paese, e tanto da essere considerato il pittore dei parchi nazionali e da aver dato addirittura il nome a una cima del Grand Canyon dove morì nel 1934. In una casa d'asta svedese, dove l'autore capita per caso, egli scopre il quadro di un pino che lo affascina e che gli fa esplodere la curiosità e la passione per l'opera e il suo sconosciuto autore, che si rivela appunto essere Wildfors. Di qui il libro, che si intitola L'arte della fuga, pubblicato da Iperborea, 190 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Fulvio Ferrari, che narra appunto della scoperta di questo pittore, ma soprattutto del ruolo che egli ha avuto nel creare nell'immaginario collettivo americano il mito della natura, delle riserve naturali, e quindi anche il mito della natura nella cultura statunitense, che era stato già alimentato da personaggi come Emerson e Thoreau. E sentiamo con che spirito Wildfors si avvicinava ai propri soggetti. Si sforzava di rappresentare quel che vedeva senza per questo essere una macchina fotografica. Nessuno meglio di lui sapeva com'era difficile cogliere l'anima del paesaggio, si trattasse anche solo di un pino illuminato dal sole d'estate. E la sua pittura regge. Il suo banco di prova fu il Grand Canyon. Basta sfogliare uno degli splendidi volumi sui pittori che si sono misurati con le vedute del parco per rendersi presto conto che proprio Moran e Wildfors sono quelli che resistono meglio al tempo. Il primo con il suo magnifico senso del dramma, il secondo grazie alla dolcezza dei colori e ai contorni del disegno. E la prospettiva, soprattutto quella, riconosceva i soggetti come nessun altro, almeno tra i pittori. Altri, forse. Abbiamo accennato a Thoreau come fonte ispiratrice del culto per la natura incontaminata, un autore che Sjöberg confessa di non amare eccessivamente, considerandolo un po' untuoso nella sua venerazione della natura, così lo definisce. Ma un'opera in particolare di Thoreau l'autore svedese confessa di apprezzare particolarmente, ed è L'arte di passeggiare, un testo che gli definisce fantastico, tortuoso e misterioso, oltre che un po' eccessivo, che è uno naturalmente dei testi fondanti della cultura americana. E questo testo torna nella traduzione di Stefano Paolucci per Piano B, in una raccolta di scritti di Henri Thoreau intitolata Camminare e altri passi scelti, 128 pagine, 14 euro, scritti nei quali Thoreau definisce la sua idea di wilderness intesa come la natura, lo stato selvaggio non alterata dall'intervento umano. In particolare, Camminare, un testo ricavato da due conferenze che Thoreau aveva tenuto nel 1850-51 e aveva raccolto poco prima di morire nel 1862 per una rivista. E il libro si apre con una famosa lode della natura. Desidero spendere una parola in favore della natura, della libertà assoluta e dello stato selvaggio, contrapposte a una libertà e una cultura puramente civili. Desidero considerare l'uomo come abitante o parte integrante della natura piuttosto che come membro della società. E il camminare serve appunto per immergersi in questa natura. Ma immergersi e camminare in che direzione? E la risposta di Thoreau è di essere convinto che la natura, lo cito, sia percorsa da un sottile magnetismo che ci guiderà sulla giusta strada se inconsciamente ci affidiamo a esso. E quindi, come nota il curatore, il camminare diventa una metafora dell'esplorazione di se stessi. Thoreau fu uno dei maestri di un'altra appassionante e sconosciuta personalità americana, una donna femminista e anarchica, Voltairine de Cleyre, una donna, nonostante il nome altisonante, che era di umile origine, era nata in Michigan nel 1866 da una famiglia impegnata nei movimenti politici progressisti dell'epoca. La ragazza intelligente, volitiva, e matura il suo orientamento anarchico in un istituto religioso dove il padre l'aveva iscritta nella speranza che l'insegnamento delle suore riuscisse a far emergere le doti intellettuali che la ragazza già manifestava. Voltairine si dedicherà all'arte e poi all'insegnamento, ma soprattutto si avvicinerà al pensiero anarchico, al quale aderirà ufficialmente nel 1888, alimentando anche le prime rivendicazioni femministe. Quindi darà vita a una figura veramente affascinante che questo libro ci presenta con la raccolta dei suoi scritti più significativi. Il libro si intitola Un'anarchica americana, pubblicato da Eleutera e curato da Lorenzo Molfese, 184 pagine, 15 euro, e qui troviamo una testimonianza del suo impegno politico e anche della sua notevole efficacia oratoria. Un'autentica saga americana è quella che ha scritto una scrittrice, Joyce Carol Oates, di cui esce un'epopea americana in quattro volumi. Sono usciti Il giardino delle delizie, 520 pagine, 21 euro, tradotto da Francesca Crescentini, e I ricchi, 330 pagine, sono pubblicati dal Saggiatore, 18 euro. I traduttori del secondo volume sono Grazia Bosetti, Valeria Gorla, Camilla Pieretti e Sara Reggiani. Seguiranno loro e Il paese delle meraviglie, che verranno pubblicati fra poche settimane. Si parte dagli anni 50-60 col primo volume, Il giardino delle delizie, che descrive un'America proletaria vista attraverso gli occhi di una ragazzina in cerca di una difficile uscita dall'ambiente povero e chiuso nel quale è nato. È uno spaccato dei proletari bianchi per i quali il sogno americano rischia di rimanere una chimera. L'ambiente della borghesia liberale invece, dipinta con uno stile molto satirico, ne I ricchi. Il terzo e il quarto volume infine ci porteranno nell'America di oggi, dando vita a una quadrilogia ambiziosa che, nelle parole dell'autrice, vuole rappresentare una critica dell'America, della cultura americana, dei valori americani, del sogno americano. Un altro mito della letteratura americana è G. Day, Jerome David Salinger, che divenne celeberrimo in tutto il mondo per il libro Il giovane Holden, per poi praticamente sparire dalla vista del consorzio umano. Visse infatti per tutta la vita in un regime di strettissima e leggendaria riservatezza. È un personaggio mitico, autore di uno dei titoli più famosi del Novecento, la cui personalità complessa ha incuriosito molto scrittori e giornalisti. In particolare Andrea Bosco, che è un giornalista italiano, ha pubblicato un volume tratto da una lettura scenica proprio sul suo capolavoro. Si intitola Scoprendo Salinger, come forse è stato inventato il giovane Holden, e pubblicato da Booktime, 62 pagine, 10 euro. E qui troviamo la storia dell'autore e l'autore stesso che racconta l'origine del romanzo, le reazioni alla sua fortuna e il suo isolamento successivo, giustificato dall'incomprensione di come il mondo andava cambiando. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.